La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, diretta da Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia. Alle 16.31, primi 22 secondi. E ora vi dice subito l'argomento della puntata, perché qualcuno di voi possa decidere se intervenire o meno. 800 24 00 24, numero di telefono, 349 238 6666, per gli sms con le opinioni. Vi ricordo anche l'indirizzo, la versione di Oscar, @24.it, per temi di trasmissione o per proporvi osservazioni e domande. Anche sulle banche, visto quello che succede in questi giorni, come è noto, io non sono dell'opinione, l'ho detto anche in televisione, del fatto che siamo in un momento di totale solidità, tutto, non è così, lo dicono i numeri, ma chiusa parentesi per chi volesse confrontarsi su questo tema, visto che per il resto vi rimando ovviamente a Focus Economia, che ci segue dopo con Sebastiano Barisoni. Allora, l'argomento di oggi è dedicato a una protesta che è in corso oggi su Twitter, per chi lo segue, ed è una protesta organizzata da alcune associazioni che si occupano di chi? Si occupano dei lavoratori autonomi professionali, cioè di chi è a partita IVA, non per questo è un professionista di tipo ordinistico, insomma dei freelance. Ed è un tema che noi abbiamo seguito negli anni, a dire la verità, cioè, diverse volte l'anno noi facciamo il punto delle richieste di questa categoria, a mio giudizio trattata malissimo nel nostro paese, confusa con finto lavoro dipendente, massacrata con aumenti progressivi delle aliquote contributive anno per anno, negli ultimi anni sospesi all'ultimo minuto, ma sempre sospesi restano, non viene cancellata la spada di Damocle, ogni legge di stabilità sul fatto che aumentano automaticamente poi le aliquote contributive. E la novità qual è? Che il governo Renzi va riconosciuto, in legge di stabilità, quindi alla fine dell'anno scorso, aveva fatto un'apertura reale, significativa, rispetto a un intervento organico dedicato esattamente agli autonomi professionali a partita IVA, e si era parlato di un disegno di legge veramente organico che estendesse alcune tutele di cui sono sprovvisti questi particolari lavoratori, con un vero e proprio statuto, insomma, del lavoro autonomo, però lavoro autonomo definito esattamente riferendosi a questo tipo di categoria, quindi non alle attività che sono registrate come artigiani o commerciali, cioè lavoro autonomo svolto in forma di impresa, bensì quello appunto degli autonomi professionali freelance. Questo statuto era una novità molto significativa, molto apprezzata per come si presentava, dopo anni in cui era evidente in alcuni testi che erano girati, che era un po' colmi di pregiudizio verso questo tipo di attività di lavoro, c'erano delle aperture molto molto significative. Che cosa avviene adesso? Che nel frattempo si avvicina l'esame parlamentare, l'inizio dell'esame parlamentare del disegno di legge. Nel disegno di legge però ci sono alcuni punti nei quali c'è qualche ripensamento. E allora, proprio per tre di questi punti fondamentali è stata organizzata questa protesta, per richiamare l'attenzione di tutti su questi tre punti, che sono dei passi indietro, per così dire. Io ricordo solo, perché è ovvio che chi si trova in questa condizione, cioè i freelance, gli autonomi professionali, sanno esattamente di che cosa stiamo parlando, gli altri meno, quindi non possiamo dare per scontato che tutti abbiano ben presente di che cosa si parla. Allora, quali erano alcune, io non mi limito a dirne alcune perché sennò parlerei troppo a lungo, delle caratteristiche positive che possono uscire da questo intervento di legge finalmente organico dedicato ai professionisti autonomi? Poi naturalmente darò voce a loro, però la voce è soprattutto per vedere che cosa si può cambiare rispetto a quei tre punti, come vedrete. Innanzitutto c'era una protezione sui tempi di pagamento. Si era parlato a lungo del fatto che questa è una categoria molto esposta ovviamente ai ritardi dei pagamenti, lavorando su consulenze e incarichi, e per la prima volta nel promesso intervento di legge da parte del governo si parlava di termini di pagamento di 60 giorni, dopo i quali scattava automaticamente un risarcimento fin dal primo giorno di ritardo, cioè veramente una modifica dal giorno, dalla notte al giorno, per così dire. Finalmente la luce. Si prevedeva una deducibilità delle totale delle spese di formazione sino a 10.000 euro l'anno, quindi molto buona. Si prevedeva una tutela per le malattie, soprattutto per le malattie gravi, cioè quelle che impediscono di lavorare per oltre 2 mesi, nel qual caso si prevedeva di sospendere il versamento degli oneri previdenziali, sospensione che poi sarebbe stata rateizzata successivamente, però anche questo un passo avanti fondamentale verso chi non ha tutele di questo tipo. E oltretutto si prevedeva anche di parificare, di equiparare a quella che per gli altri lavoratori, lavoratori dipendenti, è la degenza ospedaliera, invece la degenza domiciliare per gli autonomi professionisti, certificata ovviamente da un medico. E questo tipo di parificazione significa un innalzamento dell'indennità dovuta alla malattia, l'equivalente della degenza ospedaliera ma con degenza domiciliare certificata, e quindi riconoscendola sino a un massimo di 180 giorni, quindi diventava un vero passo sostanziale verso l'equiparazione del trattamento delle malattie tra i diversi tipi di lavoratori. Tra le altre cose c'era anche un intervento annunciato per la maternità, perché finalmente si superava quello che c'è oggi previsto. Oggi, per poter fruire dell'indennità di maternità, una lavoratrice in queste condizioni ha l'obbligo di astensione dal lavoro, che confligge con la realtà, perché a quel punto l'indennità di maternità si può benissimo fruire per un autonomo professionale continuando a lavorare da casa, dal proprio ufficio, insomma auto-organizzandosi, perché è ovvio che è una delle caratteristiche di queste figure professionali. Poi c'erano altre misure sui congedi parentali e così via. Adesso io vi presento i nostri ospiti per tentare di capire, rispetto a questi che erano solo alcuni punti, perché poi c'era ovviamente il nuovo intervento sul regime forfettario dei minimi, che viene rivisto rispetto al 2015, ne parleremo se abbiamo tempo più avanti. Non saltava purtroppo, ma rimaneva l'idea che a ogni fine anno però c'è solo un intervento in legge di stabilità che sospende l'ulteriore progressione dell'aliquota contributiva. Questo non si era riuscito a superarlo, però ci sono tanti altri aspetti di questo promesso intervento legislativo. Vediamo adesso i 3 punti su cui in realtà le cose potrebbero andare, col testo che c'è oggi, meno bene di quanto non sembrasse. Allora, sono con noi Riccardo Alemanno, che è il vicepresidente vicario di Confassociazioni, Confederazione delle Associazioni Professionali, che insieme ad ACTA in Rete, che spesso abbiamo ospitato questi microfoni, sta appunto animando questa protesta. Grazie ad Alemanno. Grazie a voi. E Daniela Fregosi, consulente nella formazione aziendale, l'abbiamo già sentita a questi microfoni, perché proprio il caso di Daniela Fregosi, costruito e reso pubblico, questo lo rende ancora più meritorio, come esempio su cui incardinare una battaglia per le ingiustizie del trattamento in caso di malattia, perché lei ha un cancro, è stata diagnosticata di cancro solo nel luglio 2013, ecco, ed è con noi di nuovo Daniela Fregosi. Io la ringrazio perché ancora una volta si è messa in gioco, proprio perché uno di questi 3 punti riguarda esattamente quello che prima ho tentato di sintetizzare su un passo sostanziale verso l'equiparazione delle malattie, in particolare delle malattie gravi. Buon pomeriggio e grazie a Daniela Fregosi per il suo coraggio civile. Buonasera a tutti. Allora, che cosa c'è che non va rispetto alle promesse esattamente su questo punto? Pronto, è caduta la linea? Sì, parliamo della malattia. Quindi esattamente, subito. Esattamente. Perfetto. Allora, pare le notizie che io ho ad oggi è che sembra che il congelamento dei contributi sia confermato. Quindi diciamo sarebbe una misura tra l'altro di buon senso, quindi niente di particolarmente eccezionale. Se lo vai a chiedere a un lavoratore dipendente probabilmente si mette anche a ridere. Diciamo, per noi è grasso che cola, diciamo così. Mentre la cosa grave è questa, pare, mancata equiparazione tra degenza ospedaliera e terapia domiciliare. Tradotto in soldoni, cosa vuol dire? Che un lavoratore autonomo che debba fare, per esempio, una chemioterapia, una radioterapia, o come è successo a me, ho dovuto fare 8 mesi di fisioterapia intensiva per delle complicazioni molto sostanziose post-chirurgiche, ha riconosciuto all'interno della gestione separata solo un massimo di 8 settimane, equivalente a 2 mesi. Quindi rimane scoperto per tutto il resto della malattia e delle terapie. Tra le altre cose, la degenza ospedaliera, in termini economici, è pagata il doppio della indennità di malattia della degenza domiciliare. Anche qui, per fare un esempio concreto, io di indennità di malattia ho preso 13 euro al giorno per 2 settimane, quindi anche qui mi viene da ridere, comunque diciamo sono soldi meglio di niente. La degenza ospedaliera mi è stata pagata 26 euro. Il problema, e tutti gli ascoltatori questo lo sapranno bene indipendentemente dal fatto che siano autonomi o meno, è che ormai in ospedale non ti ci tengono quasi più per nulla, nel senso anche un'operazione grave dopo qualche giorno ti buttano fuori perché sei un costo grosso, no, per la sanità italiana. Quindi noi purtroppo non possiamo sperare nei 180 giorni della degenza ospedaliera, perché la degenza ospedaliera è data pochissimo. Ecco perché questa equiparazione dell'ospedale alla terapia domiciliare è per noi importantissima, è l'unica speranza di poter venire coperta la malattia grave, sottolineo, stiamo parlando di tumori, malattie croniche, non di influenza, è l'unica speranza di vederla coperta in maniera abbastanza decente, perché a differenza di altre situazioni, noi autonomi purtroppo non possiamo sperare in altri ammortizzatori sociali, non abbiamo disoccupazione, non c'è un reddito minimo, l'invalidità civile per noi è quasi impossibile perché ti calcolano il reddito dell'anno precedente, quindi anche lì c'è uno sbarramento forte. Quindi dobbiamo attaccarci a questo comma dello statuto dei lavoratori autonomo che chiediamo appunto non venga eliminato. Allora, il comma diceva testualmente, nel testo originale di cui c'era notizia, che i periodi appunto di malattia certificata conseguenti a trattamenti terapeutici delle malattie, per esempio oncologiche, erano equiparati alla degenza ospedaliera. Come spero abbiate capito, questo significava due cose, cioè significava pagare di più i giorni impegnati in queste terapie. Avete sentito la cifra corrisposta col vecchio criterio a Daniela Fregosi, viene purtroppo amaramente da sorridere, non c'è niente da ridere, ma resta l'amarezza. E la seconda conseguenza è che allungava i periodi di copertura della degenza domiciliare riconducibili a queste terapie malattie gravi, e quindi da 2 mesi si passava a 180 giorni, cioè a 6 mesi. Questa roba sparirebbe. Perché nella storia, tra virgolette, c'è sempre stato questo trattamento diverso, sfavorevole verso queste figure professionali? Perché l'idea era che in realtà queste figure professionali pagavano di aliquota contributiva un'aliquota significativamente più bassa rispetto a quella dei lavoratori dipendenti, e quindi le coperture e i relativi diritti dovevano essere significativamente più bassi. Però, cari lavoratori dipendenti in ascolto e cari tutti gli ascoltatori, negli ultimi anni la situazione contributiva dei freelance è completamente cambiata, perché in 8 anni l'aliquota dei versamenti obbligatori contributiva era il 10%, è praticamente triplicata, perché è al 28%, e di anno in anno rischia di, come vi ho ricordato già in legge di stabilità, di scattare un altro aumento automatico. Allora, in presenza di un'aliquota contributiva di questo tipo e in presenza dei bassi redditi, molto contenuti redditi di queste figure professionali, voi capite che l'ingiustizia del vecchio pregiudizio, che però aveva una storia dietro e si ancorava a un livello di contribuzione molto più basso rispetto a quello dato dalla somma contributi in carico dell'impresa e contributi a carico del lavoratore dipendente dell'impresa stessa, oggi è totalmente ingiustificato. Ha senso tornare indietro rispetto a questa promessa per le malattie gravi? Secondo me no, non ce l'ha da nessun punto di vista. Quindi tentiamo di capire cosa succederà in Parlamento, però io intanto ringrazio Elena Fregosi, ricordate che si è messa in pubblico, in discussione, ha raccolto 86.000 firme alla petizione sul caso di Daniela Fregosi per fare questo passo avanti nell'eguaglianza dei diritti, che motivato da quello che pagano, non si tratta semplicemente di una equità dovuta al fatto che ci devono costare più soldi per equità, pagano di più, non so se è chiaro. Allora, detto questo, intanto la ringrazio e adesso andiamo al minuto di informazione sulle strade. Come vedremo, ci sono altri punti e non solo questo. Tra poco. La versione di Oscar. Allora, siamo tornati in diretta a puntata dedicata a questa protesta che è in corso oggi rispetto al promesso statuto dei lavoratori autonomi. Stiamo parlando degli autonomi professionali, quindi non degli autonomi organizzati in forma di imprese, artigiani e commercianti. Un intervento che a suo merito il governo Renzi ha promesso quando nel corso del dibattito della legge di stabilità, il cui esame dovrebbe cominciare adesso, un testo che effettivamente, per come fu presentato, comportava dei significativi superamenti di pregiudizi storici su molti punti, sull'equiparazione dei diritti e anche rimodificando verso l'alto l'intervento che era stato sbagliato sul regime forfettario dei minimi IVA nella precedente legge di stabilità, cioè quella per il 2015, ma come vedete ci sono già dei passi indietro. Prima ve l'abbiamo spiegato, ve l'abbiamo fatto spiegare da Daniela Fregosi, ed è sull'equiparazione dei diritti sanitari per le malattie, quelle di impatto pesante, e si torna indietro però sia sui termini di pagamento dei giorni della degenza domiciliare rispetto a quella ospedaliera, sia sulla durata della copertura. Per gli altri punti è con noi appunto Riccardo Lemano, vicepresidente vicario di Confassociazioni. Allora, di che cosa si tratta? Perché questo testo sta tornando indietro e su quali altri punti? Beh, è come sempre, a volte la ragion di cassa prevale sul buon senso e sui diritti. Questa in estrema sintesi un po' quello che lei dice, che è il tesoro avvenendo. Insomma, dire meglio. Beh, d'altra parte, oggi tutti, quando parliamo di interventi legislativi, la prima cosa, la legge delega, mi ricordo, dice: facciamo qualsiasi intervento però ad invarianza di gettito, che sì, già questo naturalmente dice lunga, a lei non tocca dirlo, però è anche vero che nel frattempo poi invochiamo la clausola sicurezza dopo gli attentati al Bataclan per dire che noi diamo 500 euro a ogni diciottenne per andare al cinema. Quindi mi perdoni, io faccio, non lei, non lo, è meglio che non lo faccia, ma io che sono un po' critico dico che i soldi poi per altre cose li troviamo, e come, in deficit, alzando il deficit. Però chiusa parentesi, ecco, io devo dire la verità, tra i soldi ai diciottenne per da cinema, teatro, eccetera eccetera, cioè, per carità, e l'equiparazione di chi ha un cancro da un autonomo professionale, secondo me qualunque persona ragionevole dovrebbe capire qual è la priorità, però magari mi sbaglio io. Ma infatti spero che sulla questione che ha ben individuato Daniela e a cui Confassociazioni ha aderito al suo appello, anche se è paradossale che bisogna vivere in prima persona, esatto, i problemi molto per garantire i diritti ad altri. Ho detto paradossale usando un eufemismo, ovviamente. Sì. Gliene va reso merito, perché però insomma, chiunque abbia un'idea di cosa stiamo parlando, pensate se uno che ha questo problema e con fisioterapia di quell'impegno, perché evidentemente la malattia è seria, deve mettersi a fare il testimone al pubblico per implorare che qualcuno capisca che quelle condizioni sono effettivamente trattate in una maniera intollerabile. Chiusa parentesi. Gli altri interventi sicuramente sono meno drammatici di quello poc'anzi indicato e riguardano un passo indietro sulla certezza dei pagamenti da parte dei clienti, dei professionisti, della legge 4/2013, perché ricordiamo che tutto questo mondo è stato poi inserito in una norma di legge definendoli professionisti e quindi dovrebbero essere trattati come tali anche in altre situazioni della loro vita sociale e lavorativa. Il pagamento garantito entro 60 giorni dalla data dell'effettuazione della prestazione. Devo dire che su questo personalmente non ero stato mai troppo così entusiasta, ma non tanto per il fatto che non sia giusto, è assolutamente giusto e doveroso, però abbiamo visto che non hanno attecchito neanche gli obblighi di pagamento nella pubblica amministrazione. No, restano più di 70 miliardi il debito commerciale, ci dice Banca d'Italia. Esatto. Quindi vuole che poi i professionisti della legge 4 invece abbiano un vantaggio rispetto ad altri settori, quindi sarebbe stata abbastanza illusoria. Detto ciò, sicuramente il fatto che sia inserito e resti nel disegno di legge, quindi poi approvato, sarebbe solamente doveroso, perché siamo produttori di reddito, lavoriamo e diamo lavoro così come tutti gli altri settori. Altra modifica... E invece che, pare che comunque si passi da 60 a 90 giorni, perché poi questo sì, è il punto. Detto questo, Nino, la questione è quella che io firmerei se ci fosse la certezza, certo, 90 giorni. Ecco, perché poi la realtà ha sempre un'altra visione rispetto a quella che è la teoria della norma legislativa. Però poi c'è anche un altro passo indietro, e questo paradossalmente mi dispiace ancora di più, perché riguarda la formazione. Formazione che oggi è obbligatoria anche per i professionisti della legge 4, che siano inseriti in particolari associazioni rappresentative. Si parlava che della deducibilità dei costi da formazione sino a 10.000 euro. Mm-hmm. Benissimo, con 10.000 euro sicuramente si può già avere un buon investimento. È un buon monte annuale, sì. Assolutamente, anzi, magari si arrivasse a quello, no, per la formazione. Mentre invece adesso parrebbe che sì, si potranno detrarre sempre che sia fatto presso un ente formativo accreditato, immagino accreditato ai vari ministeri. Ora, si parla di formazione, si parla di semplificazione, si parla di aiutare soprattutto i giovani professionisti, e poi si mettono dei paletti che hanno veramente un gusto, e anche qui uso un eufemismo, un po' retro. No, ma non è retro, parliamo, io anche come sempre vado fuori dai denti rispetto agli ospiti che devono essere diplomatici, poi alla fine siete voi che dovete tentare di convincere il legislatore, io faccio un altro mestiere. Certo. Per l'ascoltatore, quando si parla di formazione e improvvisamente riappare il vincolo di fare formazione solo in un ente accreditato, vuol dire che la politica pensa a favorire gli enti che, essendo accreditati, fanno capo a ministeri, sindacati, eccetera, eccetera, virgola, che non hanno un'offerta formativa per queste particolari, innovative, up to date, dal punto di vista dell'evoluzione del mercato, dal punto di vista delle competenze necessarie, dal punto di vista degli strumenti tecnologici che devono usare, figure professionali. È la politica che pensa al mondo parapubblico, di cui ha le bandierine del consenso in mano. Ecco, io lo dico in termini brutali, chiusa parentesi. È molto più incisivo che il mio termine, no, detto, ma, sicuramente. Ma cioè, siccome non devo andare io a trattare, però io agli ascoltatori, no, quando no, c'è l'accreditamento dell'ente pubblico della formazione, significa che si pensa di dare soldi che servono ai dipendenti della formazione, non a quelli che la frequentano, ecco, brutalmente. Ma siamo poi un paese in cui se non c'è lo stampone pubblico non si ha il diritto di pensare, di parlare, di lavorare, questo... Per un liberista come me è assurdo. Non usi quella qualifica, sennò diventa uno da bruciare al rogo. No, no, non la uso. Ma guardi, userò una tuta ignifuga in modo da... No, però poi adesso, al di là di queste modifiche, e sicuramente la più grave è quella indicata sulle malattie più gravi e degenerative e l'assistenza domiciliare, una cosa positiva, io l'avevo detta all'indomani della pubblicazione del DDL. Però il passo avanti del governo Renzi è la prima volta, ecco, era volta che c'è un tentativo organico di affrontare un problema. Un problema che non è di ieri l'altro, ma sono decenni ormai che queste talune figure professionali sono sul mercato, quindi insomma hanno un diritto di cittadinanza e tutti i diritti che ne conseguono. E per cui ho salutato con favore queste. Certo, queste modifiche mi fanno pensare a un ripensamento, e spero che invece prevalga non tanto il buonsenso, che è spesso latitante nella forma normativa e da parte, ahimè, del legislatore, ma quanto i diritti di cittadini. perché non parliamo freelance, partite IVA, professionisti, legge qua, parliamo di cittadini. Non c'è, ecco. Ma io arrivo anche a esprimere un auspicio, ma anche forse un'analisi un po' così, no, non fondata solo sui miei desideri. Io credo che su questo, in particolare Renzi e alcuni suoi consigli più stretti, abbiano una sensibilità più elevata, e che questo tipo di passi indietro inevitabilmente rispecchi invece la presenza in Parlamento, nella maggioranza, ma non solo nella maggioranza, qui non è solo una questione di sinistra e destra, ci siano invece più rappresentanti della tra virgolette resistenza storica alla parificazione per queste figure professionali. Io mi auguro che sia così, e quindi il problema è colpire nella sensibilità, rivolgersi nella sensibilità esattamente a Palazzo Chigi, che mi risulta, lo dico anche per aver parlato a lungo con il sottosegretario Enrico Zanetti di questa questione, essere stato personalmente impegnato su questa cosa, dicendo io la voglio fare così, cioè Renzi in persona. Quindi, caro Presidente del Consiglio, noi ci rivolgiamo a te riconoscendo questo merito, io posso essere critico su molto, ma questa volta la discontinuità c'era, in Parlamento tenta di portarla a casa così come l'avevate inizialmente quantomeno concepita. Poi se riusciremo un giorno anche a evitare che a ogni fine anno questo mondo debba temere l'ulteriore scatto automatico dell'aliquota contributiva, meglio, ma intanto su questi tre punti, a cominciare da quello delle malattie e del riconoscimento dei diritti delle malattie di questi lavoratori, tentiamo di portare a casa quello che Renzi aveva detto di volere. Grazie ancora a Riccardo Alemanno e a Daniele Fregosi. Continuate con Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani con me, Alessandro Milan, attenti a noi due.